Forza, sveglia! Avanti, devi andare a scuola, dai! Alzati, pigrone! Accidenti, il bimbo è tutto viola. Forse gli è tornato il mal di gola. Passami un cucchiaio! Tu stai buono sotto le lenzuola. Dagli lo sciroppo se no cola. Accidenti al mal di gola. Uffa, ci vorrà un po' di pazienza, eh sì. Credo che abbia preso l'influenza. No, porco! Quasi quasi chiamo l'assistenza. No, dagli un antibiotico! Presto, adesso bevi questa essenza. Accidenti Qui ci vuole un'altra medicina.